questo fischio brutto. E beh, soldo sì, non rispondi. Ha detto che non gli piace e vuol fischiare così. Ciao dottore, evita, ma te hai prosciugato il fischio giovano. Buonasera anche a lei Giulio. Aspetta, è mezz'ora che frucenni. Se abbiamo bruciato in giro di cuoio, forse ne ha convenuto di più. E tanto solo in piedi può bruciare adesso, che la va compresa in lì. Non lo so cosa c'è di Vora o se di Sassari. Allora, andiamo a stare su malato, che bisogna arrivare a capo se vuole bruciare come c'è un macco. Certo che andiamo bene, andiamo. Vabbè, già è vero, devo fare il comico che sta facendo in fuga. Perché se non vai a parlare bisogna tanto se ne intendi se ne vai uno. E se ne intendi uno, soprattutto. vabbè. Sai, sempre sono tutti in fuga, so. Non è possibile, non vedo problemi. Vieni avanti, aiuto. Facci sentire di nuovo questo fischietto schifoso. Allora, diventato il rotto a palla, è diventato, non rispondi più. Vuol dire che giro brucio, le piazze frucia e va essere fasciato. Sarà così, se è fasciato lo brucio. Ma facciamo un po' il fasciato, però, non lo brucio. Non lo so, boh. Non lo saccio. Comunque mi stai arrivando allo stesso livello, Allora sono le tue parti, lì da quelle parti. Sarà così. Caspita. Ma mi arrivi più forti. Adesso ti sei abbassato di qualche gradino. Di qualche gradino mi sono abbassato. perché mi sono seduto per terra adesso. Ma così è. Andiamo, vai, andiamo. Allora, la mamma è buona sola indiana. Ma di segnale come arriva questa antenna? Mi arrivi tra il 5 e il 5 e mezzo. Solo? Allora siamo già a punto. Tra il 5. No, deve essere lo speaker tuo che non va bene, dai. Aspetta un attimo. Giulio, parla a vedere. Ok. Avanti, 1, 2, 3, prova. Canta, voce piena. Mi pare tutto hanno in vesso. In vesso, cosa vuole che hanno in vesso? Ora chi non lo smettere? Ti vedo a seguito che trinto, come te coso, come te segnali. Allora, sarà uno smettere di trappo. Tu mi stai domando. 25. Forse sono io che sbaglio, non lo so, perché nell'altro mi segnava 9,5 mi segnava, e non che mi segna. Ma che ti segna Loki? E non che mi segna 5,5. Ascolto in casa mutua, quella che sembra le buone stare, funziona che sono smitta. Vabbè, dai, non è un problema. No, non comprendo, non lo so. Che antenna stai usando tu, Ottore? Non puoi dire? L'Intec 899. No, l'antenna, che antenna stai usando? Sta costruita a canna da pesca, come mi ha fatto Luca. Ah, ho capito, e anche questa è costruita, autocostruita anche questa. Maria. Guarda, io sto, la bretella presente ce l'ha. Certo che ce l'ho presente. Allora io sto di fronte alla bretella, si può dire, le palazzine rosse. Ah, di fronte alla bretella. Adesso abitiamo Mario Manse, o dove abita? No, Mario Manse è di fronte a me. Però se tu guardi quando stai passando per andare alla bretella, vedi questa antenna lunga a 7 metri. Ma sì, proprio sulla bretella? Ho capito. Ho capito, va bene. Sì, adesso passo, vabbè, cerco di farci caso. Vediamo un po' se la vedo l'antenna. Lì ce n'erano due una volta. C'era l'antenna di Mario Master e poi nel palazzo a fianco c'è la lanterna di una donna che non me la metto più, che voleva anche il marito, tra l'altro non me lo ricordo, vabbè, non è importante. No, quello è tutto dall'altra parte, io sono dall'altra parte, sono. E se tu vedi, ci sono le villette e poi ci sono i cassonetti, io sto di fronte ai cassonetti. Ho capito, va bene, ma troverò. Oh, solamente ci passo lì, però quando capita, se mi ricordo, vado un po' di guardare sui tetti se si vede. Ok. Quando stai andando alla bretella tu guardi alla sinistra, se un gabbo si vede l'antenna mia. Quando sto andando verso la bretella, passando quando sono a stanza, però, ma se sono qua dove sono io salgo da via la Pontotorre, giro la bretella e poi devo girare a destra, così è. No, allora se sei sopra la bretella dovresti venirti di fronte, ti viene e la vedi subito. Ma cos'è? Vuoi prepararti con i mattoni a vista, con i mattoni mattoncioni, quanti li chiamano? Sì, i mattoni a vista, quelli rossi, quelli lì sono. Se tu di fronte, proprio ti capita di fronte il palazzo, ti capita di fronte e vedi l'antenna. Ho capito. Allora non rende molto. Non rende molto allora con l'antenna. Vabbè, anch'io sono penalizzato perché anch'io ho di polo. Però non rende molto, perché mi ricordo, Mario Marte, praticamente sì, allo stesso livello di Mario Marte, mi arrivava a 9.35, mi arrivava qui, ti puoi immaginare. Era a fondo scala praticamente. No, deve essere questo apparato che è un bel trinto, deve darsi no, con 4 watt, boh. E poi in recinzione è un po' stretto di cosa, deve essere questo apparato qua, perché nell'altro apparato ci arrivi 9.5, 9.10 quasi. Ho capito, ma perché lì, da quella posizione, parlando di tutti quanti quelli che abitano lì al di Madetta, di tutti indistintamente, non c'era mai stato nessuno che mi sia arrivato più forte di come mi arrivava Mario Marte. Te lo sto dicendo, Mario Marte mi arrivava a 9.35 e toccava a fondo la lancetta del baracchino, dunque io suppongo che sia così il massimo, 9.35 e 9.40, no? Oltre non andava. Per cui tutti mi sono sempre arrivati bene, la verità. Lo stesso Gian Maria mi arriva a 9.10, non è che mi sta arrivando esageratamente, ma una volta mi arrivava più forte, anche lui mi arrivava a 9.15, 9.20, adesso mi sta arrivando intorno ai 9.10, sempre. Vabbè, bisogna vedere cosa sta usando, quale baracchino sta usando. Questo è un apparato nuovo e eccolo già, è per quello, deve essere con i 4 watt, non spingono molto, ma boh. Non lo so, forse per questo che so trintigio. Lo so, purtroppo è così, è d'altronde, un omologato è così. E vabbè, ho avuto la stella di 5 watt, nemmeno, 4.8, 4.8, 4.9, con esattezza, questo baracchino. L'ho misurato proprio per poco fa, l'ho misurato la potenza dei watt che mi sta dando. Forse se tolgo il grosmetro da perché se c'è il grosmetro inserito, se lo tolgo magari supera anche 5, forse 5 watt e mezzo, boh, ma mi dica così da comunque. Sarà così, Giulio, sarà così. Sì, se ho fatto questi omologati, ci ho fatto un po' gare 2-30. Vabbè, sono i clienti, ho bisogno dei suoi clienti. L'interessante è che mi avrei già minore, io molti fritti, ma poi si vedono un baracchino per il prezzo. E dice il video, e me li dice a Edo che io, che te. Ciao Giulio, vediamo se c'è Gian Maria d'ascolto. Ciao Maria, è bene, un cazzo è impegnato di Raya, ti siedi. Uia. Me a Marco, mi. Marco, non mi dici che sei tracco? Oggi siamo. Buonasera a tutti innanzitutto. Oggi veramente è stata una giornata campale, siamo partiti alle 9, siamo andati a Ozieri, siamo andati al referto Aspetta, dopo me lo dici. Oh, mamma mi ha detto una notizia terribile. Poi mi ha dato il referto, quindi una notizia buona o cattiva, niente di non risolvibile. E sono in movimento da stamattina. Non vi... La parola, la frase sarebbe c'ho un addito in, ma non si può dire perché c'è Giulio e anche squadra. Buonasera a tutti. Sì, buonasera Marco. Sì, prendetela Giulio. Ok. Ciao Marco, hai appena annunciato che la notizia era buona, meglio così per te. Sono contento anch'io per te, figurati, ci mancherebbe altro. Io sono sempre per la pace e soprattutto per la salute massima delle persone. L'hai già annunciato, hai già capito di quello che stavamo parlando ieri. Sono contentissimo. Avanti Marco. Contentissimo di cosa? Aspetta che ero qui, c'erano interferenze nel cuore. Tu hai appena annunciato che una notizia era buona. Se ti riferivi a quello che stavamo parlando ieri riguardo di Ossiri, eccetera, va bene così, sono contento se ti riferisci a quello. In poche parole, c'è un tumore benigno alla testa, all'ipofisi. Però è grande già come una fragola, come una grande fragola, e va tolto quanto prima. È benigno, però si sta espandendo, quindi dovrò andare a Milano, perché qua sono CPT, mi hanno detto. Invece a Milano sono più esperti. Ti consiglio, secondo me, Marco, di farti visitare anche qui a Sassari. Non ti fermare solo a uno, perché vediamo un po' se confermano anche qua. Fai così, oppure vai fuori, come sta dicendo, ancora meglio. Io, tu hai detto una notizia buona, e io avevo subito capito che la cosa era buona. Se risolvibile va bene così, Marco, non interessante che sia risolvibile, ammesso che sia effettivamente così. Sì, sì, il quadro è completo. Devo fare un esame degli ormoni prodotti dall'ipofisi, tipo la prolattina o quello che è. E poi mi hanno consigliato quanto prima, quantomeno a Cagliari, ma se a Milano è meglio, quindi ogni baranoia dovrò volare a Milano. Io l'aereo mai preso, quindi lo temo, ma temo di più la sala operatoria. Comunque va fatto, quindi punto, va fatto. Vabbè. Beh certo, ci mancherebbe altro. Allora, datela a fare subito, lascia perdere la paura all'aereo. Che diavolo, non sarà così grave, la supererai la paura anche dell'aereo. Queste situazioni bisogna svegliarsi subito, non stare lì a perdere troppo tempo. Di solito tolgono dal naso con le sonde, no? Fanno un buco in fondo e lo aspirano, insomma lo portano fuori. E se non male che vada, devono di lato aprire il cranio e toglierlo da lì. Però io l'ho sempre visto fare tramite il naso, con le sonde, capito? Tagli e cuci fanno, capito? Con quelle sondine e tutto quanto fanno. Ho capito, tipo laser, così, tipo laser. Come Giulio? Se vanno con delle sondine tipo laser, con l'intervento tipo laser viene fatto. No, niente laser. Di solito va un po' come ho aspirato, ho tagliato a pezzi e ho portato fuori con le pinzette. Ecco perché io vedevo male, avevo la vista un po' compromessa, perché questo tumore benigno sta comprimendo, perché vedo grandetto, sta cominciando a fare pressione e mi sta comprimendo il chiasma ottico, capito? Mi dispiace veramente questo. Da fare subito, non stare lì a prendere troppo tempo. Mettici subito in moto e parti e ti fai curare. Avanti Tore, scusa. scusate del monologo, dai, con avanti Tone. Sì, Marco, non aver paura dell'aereo. Già non è da temere adesso l'aereo, sono più tranquilli adesso. Lo so, ma sai, io non sono abituato a viaggiare, mi rompe più le scatole il viaggio. Vedi, a Cagliari avrei preso il treno, ero lì. Invece qua bisogna andare più lontano, più spese, più tutto, eccetera. Molto bene, no, non è niente di grave, dai. Però se cantino va bene. Chi altro c'è qua? Non c'è nessun altro, Gio Maria, no? Graziano? No, non c'è nessuno, ma siamo noi, solo noi tre. Purtroppo la sanità lo sappiamo benissimo che non è così magnanima con i pazienti, però a Milano si risolve, dai, già si risolve. Non ti preoccupare l'aereo, lascia perdere il discorso aereo, non ci pensare nemmeno, devi dormire tranquillo, non pensare al viaggio, pensa invece alla culatti, poi l'aereo lascia il tempo che trova, intanto si tratta di 3-4 ore di viaggio, niente di più, per cui non stai andando in Australia o Marco, non fai finta che hai volato tante altre volte, per cui... E poi cosa stai pensando? Che proprio quando si entra in aereo ci possono essere dei problemi? Ma dai, sì, dai, se dobbiamo essere così, allora addio. Prego, dottore. Infatti non fa già tempo a stare che è già farendi. Così mi ha detto mia zia. Ormai per brevi tratte non fa tempo andare in quota, decollare, andare in quota e sta già scendendo. Infatti è così. Fa quasi un'ora, non di più. 50 minuti, non di più, cosa? Per cui non è così. Poi se tu per caso sapessi di soffrire il mal d'aereo, allora ci sono anche delle pastiglie che puoi prendere, no? Evidentemente, così per precauzione, se proprio pensi di non sopportare il volo, capito? E non ci sono problemi. Tranquillo Marco, tranquillo, non gli pensare per quello, pensa al resto ma non a quello. Casomai già vi porto in aereo la bustina di carta per vomitare, aspetta che mi si bruciano i cicci. Grazie anche all'aereo quello, non ti preoccupare, non ti preoccupare la bustina, grazie all'aereo, prego tu. Ce li ha nel sedile, ce l'ha davanti nel sedile, hanno a Breogogio per la buccia in chi, poi lo dicono loro stessi, ma poi no, non viene nulla, non viene. Io mi ha giubilato la Bastiglia, ma Durrata invece ha giubato senza Bastiglia e non mi ha fatto nulla, anche io temevo, pensavo di temere, invece in 2 ore e mezzo me ne giochi scidi. Ma certo, ma io non lo stesso, non l'ho mai preso, non mi ha fatto mai niente, per cui non è quello, no. Eppure anche se dovesse capitare, perché magari uno si trova un po' debole di stomaco il giorno, non è la fine del mondo, siamo sani, caspita, per carità. E beh Marco, bruciate se sono i fagioli, cosa ho i cecchi, cosa hai detto? No, non sono già bruciati, no. Vuol dire, sono tarripo, si può dire che non sono bruciati. Infatti, qua stai già mangiando. Siamo tutti in casa, ma abbiamo tutti un problema nella vita, dottore. È utile. I colpi noi li paghiamo sempre, i debiti, perché la vita è un debito. E poi alla fine ci viene presentato sempre il conto, e lo paghiamo. E infatti, basta andare tranquilli, ma tiriamo avanti, a Puglia, certo, dobbiamo andare tranquilli e sempre andando. Poi se c'è qualche cosa, piano piano, e andiamo sempre a danare. Allora, l'importante è che sull'aereo ci siano le hostess buone. Tranquillo, di qua le già ci sono sempre. Te lo posso giurare io, quando sono andato a Londra, fin erano. Quello è un posto che occupano solo le belle donne, non le racchie. Stai tranquillo, Marco, non ce ne sono racchie. Eia. Buono, sto mangiando zuppa di ceci col finocchietto, mamma mia che buone. Bene. Vabbè. Dai, riprendete voi che sto mangiando. Buon appetito, Marco. Oggi sei un po' in anticipo rispetto alle tue abitudini. E lo so, devo solo pranzo, oggi mi sono le sette dello B, per cui va bene così. E così cosa ti vuoi fare? La vita è così, purtroppo. E bisogna prenderla come viene, vai to. Sì, se no. Abbiamo come ti si manda in esempio con un piede alla subedi e andi a Dananzi. Già lo credo io. Si già tanto si già abbiamo le botte, anche se si consumano le botte la poi ci abbiamo le bene. E poi c'è questa maniera, sempre con le botte nuove, è proprio un po' di strada. Allora, piano piano, da una volta giambirata e cammini sempre, il mondo è sempre lungo. Non credo, di qualche altro. Sembri, e beh, anche un lavoro di televisione, e prendi il microfono in mano. Ma la cuccia tu che mi sei levato. Ciao Marì, ci sei o no? E ne bello graziano, beh. Senti Aghido che esce sempre un 45, cazzo, a oggi è in oggi avanti nel 23. Ehi, ci sono sempre con la pompa solo in bocca, non è possibile che uno possa pompare col baracchino a quel modo lì, boh. E infatti si sentiva che c'era qualcosa di potenza in aumento. Perché se no quello mi verrebbe bene, chiaro, non così tutto un altro imbattagliato. In mezzo al QRM, mi arrivi in mezzo al QRM, mi arrivi. Sì, ma c'è stato un attimo che è arrivato fortissimo il radio, però non era chiara la radio, perlomeno qui me ne è arrivato uno a bomba, proprio intorno al 9.5-9.10, e la radio era fortissima, ma era tutta una... Che la vedo che la radio. Sì, pazienza. Poi ci va ridosso e sì. E infatti, stavo pensando, ma Marino si fa desiderare a baracchino, non entra mai. Ma chi se lo più assido? Ma Marino è un po' carino, un po' più abbandonato è diventato per il baracchino. No, perché c'è l'antenna ancora giù, non so se l'ha messa a posto, perché stava facendo dei lavori e ha dovuto togliere l'antenna. E ha detto, dice che in questa settimana la metteva a posto. Allora è giustificato. Allora è giustificato. C'è l'antenna mezzo capottata o malandata o in posizione non idonea, allora va bene. Allora sì. Ciao Maria, che non è ancora stasera di entrare, manco a salutarsi. Ciao Maria. Mattina sempre atteso, dalla mattina alla sera, alla luce, specialmente all'ultimo di sera. Però se non rispondi ho fatto un volume abbassato, ho una magara. No, oh, devi darsi in giro con la bicicletta, devi darsi. Per la bicicletta ti mi dato. Io l'ho preso. Capita, dove? Non lo sappiamo che è diventato un ciclista. Ciclista, andare. A me la cosa si è fatta campagna, abita che la giornata è bella. Oh, può darsi pure che c'è in campagna anche, non lo so, boh. Può darsi, infatti. La giornata oggi già lo permetteva di fare una gita in campagna, tanto che stare sempre chiuso e fare vita sedentaria, sempre bussato dall'altra televisione, lui, i casini che c'è la televisione, e andava in vincita in Borgia. Infatti, così. La stata la televisione, e io vi raggio sudata, no. Non so che vai bene, va. Oppure vi raggio sudata, se parisco. Ma fai dire, no? E cosa mi fai? Tanto, se è attesa, non vuoi dire un volumaccio, se no non tengo un baracchino. Se abbaglio la televisione, non comprate niente, e dunque... Allora, e che la prossima volta più? Infatti. Ma che non fa vedere i nomi. Infatti, e cosa va là? Ho fatto di nomi o poi la televisione. Infatti, tocca fare così, tocca fare. Gian Mari, ci sei o non ci sei? Gian Mari, se prendete un caffè anche ora, anzi non te se prendete. Ma che è impegnato, vai impegnato e non puoi chiamare il microfono. Allora, ciao da Comanzano a Ribucci. Pensavo che... Ma ieri sera mi ha detto che è entrato un dado. Ah, così è. Grazie, sa. Vabbè. Lui, siamo... Troppi anni vi siamo frequentati, troppi anni, e non venne più gara. Sì, vabbè. Va bene così, dai, Giulia. Tanto, ormai, siamo passati che c'è denti. Lo so, è così. Grazie lo conto. Tante Maria aveva preso 50 anni, mi fa questo. Sì. Io ya sto come si lui alle 40, non che sto cassa lontano anche dallo 72, dal febbraio del 72, fate lo conto, sono passati a 46 anni e mezzo. Ma male, insomma, mi sono entrato per questo. Tu 72 e io nel 79 sono entrato, mi sono trovato dei documenti della cosa. Febbraio del 79. Figuriamoci, anche tu sei entrato ieri, ho capito. Comunque già va bene. Sono un po', nella concessione c'è febbraio di 8 febbraio del 79. Poi avevo denunciato l'apparato lo stesso giorno dopo. Ma già ho detto, quell'apparato Inter che c'ho, quel 34 canali, è di quel mese lì l'avevo preso. Ho capito. L'Inter che 34 canali ce l'ho avuto anch'io. Anch'io ho avuto l'Inter che 34 canali. Avevo il... Aspetta, come si chiamava? 34S, boh, una cosa del genere, 34S mi sembra che si chiamasse quella. Quella avevo l'altra di vicino, avevo dato, avevamo fatto lo scambio. E io ce l'ho ancora, l'Inter che 34 canali, 680. Ma tu hai il 680, sì, ho capito, lo conosco, sì. Allora io ne ho avuto tanti, già ne ho anche qualcun altro, anche i secchi, non è che non ce l'ho, già ne ho. No, se ho tanta non ce l'ho avuto, io ho avuto anche il 500S, ho avuto. L'altro che su che ben ripulito quando mi hanno messo ma come ti è, boh, e sto quello lì si è sbagliato in mano. Da quel tempo. E vabbè, guarda, me ne faccio, tanto sono sempre baracchi, tutti uguali sono. Adesso ne avevo tolto l'altro giorno, questo monolato che sto usando adesso. E dunque, adesso per un po' di tempo uso questo. Non mi tracco di vizio, se devo andare pure indietro prima, ne cavo un altro monolato, ma te. No, io ne ho avuto parecchi lo stesso e tutti gli altri me l'avevo venduto, ma avevo tenuto soltanto l'emologato e il portatile me l'avevo tenuto. Ma non funziona né uno né l'altro. Beh. Patezia. Patezia, e lo devo fare, tanto. Si guasca, la parecchia d'uglio, lo dopo, si guasca, poco no. E purtroppo. E te la stessa che non si guasciamo lui. Da voi, ma guasciate la parecchia, non dimmi se si ricompare un altro, si può più di taglia. No, sai cosa è? Che la funzione già funziona. Solo che funziona l'uno nel coso, cerchi altri canali e te li trovi nel 40 o nell'1 o tutti insieme, tutti spazi. Insomma, i canali tutti a conto di casa mutua sono, ho capito. Vabbè, attenta, dai. Dai agli altri perciò già esce lo stesso con baracchino come canali a posto. Va bene lo stesso. Se parlo una voce, ho dimostrato. Infatti, ah, mi ha indirizzato. Mi ha già comparato. E così, al manco gioco tranquillo, che è omologato e tutto. E non ho nessun coso. Infatti, quello che è importante è il fatto che sia omologato. Certo, cosa se ne fai di un baracchino che non è omologato? Non serve a niente. Quello che vi dà, con Giornata Romatesi, io di tutto ne ho 12, ma omologati proprio di quelli di oggi, ho questo e un altro e basta. Tutti gli altri sono omologati, però di quella omologazione di prima, sempre tutti da 5 watt, niente di particolare, ma sempre omologati sono, però senza il marchio. Infatti io c'avevo quello là, che ce l'ho da quando avevo iniziato, poi aggiustando sono usciti quelli di frequenza. Ehi vabbè, patezza, ero da web, siamo italiani, guarda che io, meglio paletto che si è guardato, perché ero da web fatto, figurati. Invece il portatile gli avevo sfruttato il coso per recupero ossidarsi e deciso un numero esce di frequenza. Ah, ho capito. Vabbè, pazienza. Cosa vuoi fare? Non ho sentito più in via me, va per me, non è che mi ha atteso, mi ha detto ho acceso per vedere così se qualcuno si sente, ma non si è più sentito in PMR nessuno, anche perché io ripeto non ho potuto sentire perché non l'avevo più acceso. Ah, l'altro giorno ho sentito Graziano parlando con Graziano, che è domenica a Mimari, no, sabato. Sto parlando con lui, non c'è vintigio, ha detto che non assente di vintigetti, che non ha detto sempre gavendo e punendo. Ma vita non aveva una buona gravetta, di verità, punendo e gavendo, ma che tempo è venuto a unire, ce l'ha visto, che bisogna mai diventare sempre gavendo e punendo, capita che, non credo che nessuno possa una cosa del genere, se non vedo quasi così. Sì, ci sto punendo e cavendo, io ya. A me tracco subito di fumare una base e ho tratto più di più. Ah, io sono mi fisso. Okay, la moglie ha detto che non rubo più dei mezzari birri. Ah, ha detto, ma è rinato e non lo vedi. Appunto, se non rubo più dei mezzari birri, se rubo in campo, se rubo, si fa sì, un berretto che va che si attacca a capo. Capita, che discorsi sono? Ma forse non vado loro quindi punirlo, magari, non ha la possibilità, secondo te gli ha fatto parlare un pino di antenna, non ha la possibilità, state parlando di non avendo luogo ed è costretto a cavallino. È sicuro, ha detto che ci poniamo una mensolina in alto, ma no, ha detto il bar è coso, ha detto la moglie, ha detto guai, se ne buoni. Se non posso porre una mensolina nella cura a capo, avete compreso? Va bene, e la posto se mo. Ognuno sa di sesto. E dunque ognuno di casa sua ha fatto quel paio di piante. Ma io ve la Stagio 30 in camera, la mia figliura, non ve. Quindi, Stagio 30 in camera e no. Hai viraggi in occhi, viraggi. Non dà fastidio per niente. Ok. Aspetta, Brindisi, sei tu che stai chiamando? Avanti, la Sardegna ti ascolta. Aspetta, Brindisi, per la Sardegna, avanti. Ok, Toni, ciao, saluto Toni. Giulio da Sassari, Sardegna, nord Sardegna, Sassari, in compagnia di Tore che ti mando avanti in questo momento, così si può salutare anche lui. Avanti Tore, per Toni in Brindisi, o in provincia di Brindisi. Sì, amico di Brindisi, ok. Ben sentito, è fortissimo che arrivi da me. Ok, Toni, grazie per essere entrato a salutare allora. Cambiato il saluto, ci sentiamo le prossime in condizioni migliori magari. Ciao, ciao Brindisi, ciao Toni, ciao avanti Toni. Sì, ciao l'amico Toni, ci sentiamo le prossime. Che sia più buono il tempo. Questa è la Bergamo, ti ascolto benissimo, è molto forte, complimenti anche grazie alla Abba. Ti saluto Toni Commando, qua è Toni in provincia di Brindisi. Se mi dai un rapporto, segnale radio, QSL? La mia stazione da radio è perfetta, radio 5 perfetta, bomba. E il segnale è 9 più 5, quasi stabile, pochissimo QSB. QSL, QSL, vi saluto, buona continuazione sia agli amici in Sardegna che all'amico in Bergamo. Buona serata, buona propaganda, K. Ok, ciao, ciao collega, allora, le prossime. Per riascoltarci magari in queste condizioni, perché va benissimo così. Avanti Tore. Ok, l'amico di Brindisi, Toni, alle prossime, a sentirci alle prossime, ok, ciao ciao. Scopa di propagazione. Ok, forte. Toni di Brindisi, Tore, Toni di Brindisi, però si trova a Bergamo, l'ha sentito? Sì, radio 5 e 9 e 5 mi stava arrivando. Anche a me mi stava arrivando così, con il segnale, con una nave bella, forte, prepotente, chiara, pulita, molto bene. Tornati Marco, ben ritratto di nuovo. Ehi, ho mangiato poco, ma già mi devo rifare fra poco. Così, dai, sono... vorrei riposare perché da stamattina sempre moto. Prima là, poi ritornati, poi a camminare, abbiamo camminato un bel andando all'ospedale, alle cliniche di universitari, a chiedere, insomma tutto il giorno in movimento. Sono stanco oggi, veramente stanco, e ho sudato anche pure. Mamma mia, è che c'è lo scaldabagno freddo, a me la doccia fredda non piace, me la faccio domani mattina. Lo attacchi adesso, lo puoi attaccare e prima di coricarti te lo puoi fare lo stesso. Adesso se tu lo fai da bagno te lo attacchi adesso, ti conviene anche perché da quest'ora in poi, dalle 8 in poi mi sembra, c'è una diversa tariffa del consumo elettrico, dell'elettricità, per cui ti conviene. Vabbè, lo puoi attaccare stanotte e domani mattina ce l'hai calda ugualmente, problemi non ce ne sono. Va bene, noi lo lasciamo sempre fisso lo scaldabagno, sempre qui non si stacca mai, si stacca solo quando manca la corrente. Va bene, dai, avanti tu. E Marco, quando vogliamo fare queste cose bisogna farle, e se no se ci trascuriamo è peggio. No, ma sono tranquillo, ti ho detto, mi scoccia più il viaggio, a me viaggiare non piace tanto, sono abbastanza stanziale. Ok. Non chiedo se c'è Antalina in ascolto, tanto non ci sarà. Avrebbe dato un colpo di importante magari. Stiamo dicendo Marco, e poi tra l'altro Marco, secondo il mio modo di vedere le cose, lasciare lo scaldabagno sempre fisso, attaccato, si consuma di meno come energia, perché deve considerare tu che lo scaldabagno non ha mai meno di 1500 watt di assorbimento, per cui impiega 4 ore per scaldare uno scaldabagno di 80 litri, ci impiega 4 ore, sì, è vero, tu mi dirai, ma nel contempo si può anche raffreddare, sì, ci riattacca un po' l'acqua, però quando si riattacca proprio per pochissimi minuti, per cui ti tiene sempre l'acqua calda e con un consumo minimo. Il consumo è proprio nel momento, appunto, come stai facendo tu, lo lasci attaccato, quando ti serve lo attacchi e sta 4 ore per riscaldare l'acqua, così è un consumo eccessivo, Marco. Infatti, solo che no, 4 ore magari sono troppe. Non penso che in 2 ore si spenga, almeno così ricordavo, un paio d'orette. Perché le bollette sono un po' non economiche, noi siamo in 2, ma caspita, arriva salata, anche perché mamma lascia il televisore su acceso 20 ore al giorno, fatti una media di 150 watt se non di più per 20 ore. No, televisore saranno se no 80 watt, non 150, 80 watt più o meno, è un televisore di questi moderni, di quelli a schermo piatto. Poi è un televisore, quelli a tubo cattolico, di una volta, allora sì, allora comincia a avere un po' più di consumo. Però questi a tubo cattolico, cioè a schermo piatto, massimo, e io parlo anche di un televisore importante come pure, che è di una certa misura, intorno agli 80 watt. Un attimino, okay. Aspetta, sto subendo un'interferenza di mamma, almeno saluta, no? Maria, c'è Giulio e Torre Squalo. Attenzione, Giulio e Torre Squalo, un bacione da Liù. Ciao Liù, ciao, salutoni, ricambiate il tutto. Grazie per essere entrato a salutare, un sacco di tempo che non ti avevo più ascoltato, eh. E di tanto in tanto ti dovresti presentare, magari così insieme a Marco, qui passate il microfono di tanto in tanto, così una parola a uno, una parola all'altro e scambiamo quattro chiacchiere. Ti mando avanti Tone per le salutate, avanti Tone per di uno. È ricambiato il buonasera anche. E ci stiamo bene anche così noi. Ehi, eia. No, cosa stavamo dicendo? Ho perso il filo. Stavamo parlando del consumo di un televisore. Un televisore a schermo piatto, di media misura, come pollici, come grandezza in pollici, che poi tra l'altro i pollici si misurano dall'angolo ad angolo, dall'angolo alto all'angolo basso, si misura i centimetri, dividi per 25.4 e sai quanti pollici è un televisore, tra l'altro. Ma a parte questo discorso tecnico così, che ti ho voluto dire, che magari probabilmente lo sapevi già, è intorno agli 80 watt di media grandezza, un televisore. Mentre invece quello vecchio, quello di una volta, quello aveva un po' più di watt di consumo. Capito, Matt? È strano però, perché il mio televisore, che è a schermo piatto, mi pare un 32, un 37, non mi ricordo, una media misura, diciamo, no? C'è scritto 140 watt, ma non i watt delle casse, no? 140 watt proprio di assorbimento, sul frontale c'è scritto. Boh, a meno che non vi stia sbagliando io. Invece quello di mamma è un 42 pollici, dovrei guardare dietro, solo che a spostarlo, mamma mia, con tutti i fili collegati, sai, la presa SCART, la presa audio video, il coso, un macello, se lo t'avrei detto i watt precisi. Ok, ma quello che hai tu, come la schermo piatto, uno di questi moderni, un televisore moderno? Eia, schermo piatto. Non è un granché nemmeno, Grundig mi pare sia marcato, non è eccezionale a dire la verità, non è nemmeno full HD, è un HD Ready, libretto purtroppo non ce l'ho più, e ci sono due potenze davanti, una è la potenza in watt, no, delle casse. Comunque un giorno che mi girano, lo giro proprio e guardo i watt effettivi di consumo. Così posso fare un paragone con quello di mamma. Ok. Magari se non c'è una targhettina dietro ci sarà nel discorso, nell'opuscolo che ti hanno dato di garanzia soprattutto. Penso che sia, io qui, guarda, noi abbiamo 5 installati televisori qua, si può immaginare, ma il nostro, io ne ho uno da 42, uno da 38, due da 20, da 24, uno a 22, si può immaginare. E sono la media, diciamo, intorno agli 80 watt di consumo, o manco. Non lo so, magari dipenderà forse da marca a marca, questo è possibile anche. Va bene, avanti Tore. No, quelle che ho io sono 120 watt, consumano 32 pollici. 125 invece è quello 37 che c'ho, e il 42, no il 47, quello ne consuma 128. Vabbè, comunque qui non c'è problema, io guarda, qui il televisore è dalle 7 del mattino acceso sino alle 2 di notte, tutti i santissimi giorni, immancabilmente. Mia moglie lo tiene sempre acceso, io intanto già lo accendo la mattina alle 6, primo telegiornale, metto le cuffie e m'accendo un 24 pollici e ascolto il telegiornale, poi rimane praticamente, si alza nel frattempo mia moglie, scende giù e si accende lì il televisore e rimane tutto il giorno acceso, sino all'ora della cena, finita la cena, poi io me ne vado nella sala e mi accendo io il televisore di casa, quello grande, quello del salone. Poi mia moglie invece si guarda un altro programma e si accende un altro televisore da 24 pollici e rimane acceso sino alle 2 di notte, compreso poi anche il mio, che io vado a letto tardi lo stesso, e molto spesso anche alle 2 e qualche volta tocca anche alle 3 di notte. Perché, no, più abbiamo tutti gli elettrodomestici inimmaginabili che ci sono qua, per cui si può immaginare, il bagno è sempre acceso, la stufa del periodo invernale che è a coso, a pelle, e dunque anche lì c'è l'elettricità, la lavatrice, il frigorifero, la lavastoviglie, insomma tutto, per dinastia, ma le varie, totale di bolletta, mi tutto me l'ho pagata proprio ieri, 149. Allora, ho guardato dietro il televisore di mamma e c'è scritto 180 watt, 240 volt, 50 Hz, 180 watt di consumo ed è un 42, quindi credo che il mio, che apparentemente può essere un 37, è giusto 140 watt, quindi se mamma lascia, ci siete, sì? Certo che ci siamo! Se mamma lascia il suo televisore 20 ore al giorno, 180 watt per 20 sono 3,6 kW al giorno solo di televisore. Non so se mi spiego. Sì, sì, sì, certo. Sì, certo. Per un totale quanto costa ogni kilowatt? Non me lo ricordo. Ma di la verità, sono un sacco di tempo che non leggo più le bollette. Quando la cifra è bassa, vado, poi quando devo andare a pagarla, la pago e basta. Non sono più documentato se è aumentato, se è abbassato la luce. Boh, quanto è a kilowatt la luce? Quanto costa? Tore, tu lo sai. Io so solo che a me mi hanno fatto da 6, mi hanno abbassato a 4, mi hanno abbassato, e quindi non so neanche come sia. Perché te l'hanno abbassata? L'hai richiesto tu allora l'abbassamento? Perché non te lo possono abbassare? Se non la piedi la abbassa, non te la abbassano la corrente. Vabbè, da 6 kW paghi un po' di più, questo è il contratto. Però, cosa che ho chiesto tu, l'abbassamento dell'appalacchio. No, a me me l'hanno scorso, mi hanno fatto, dice che da gennaio a me mi si abbassava da 6, passava a 4,4 centesimi di non so di cosa. Ma no, ho fatto così. Invece quando ho ricevuto la bolletta di Dedeco mi hanno detto, dice che mi si abbassava da marzo. E infatti da marzo è così che mi si è abbassata pure di dinà. No, perché io lo stesso, io qua a casa ho 4 kW. Ho 4 kW che in realtà sono 4 kW e mezzo, 4.5, perché c'è una tolleranza sempre, no? Per cui non lo so. Tant'è vero, qualche volta quando c'è tutto attaccato, ad esempio, il forno elettrico, la lavatrice, lo scaldabagno, il frigorifero, il televisore, le varie, fanno la salta. Allora in quel caso noi dobbiamo staccare una cosa, almeno per il momento, provvisore, tipo che so io, se sta usando il forno elettrico mia moglie, siccome quello assorbe, mi sembra, roba di 6800 watt solo il forno, e allora siamo costretti per un attimo a abbassare l'interruttore dello scaldabagno, se no salterebbe sempre lo short del contatore, capito Otto? Giulio, Masco, io ti devo lasciare, mi ha chiamato mia moglie adesso, e ti devo lasciare che vado a prendere la signora, vado a prendere, dai, ci sentiamo dopo. Ok, to, d'accordo, to. A dopo eventualmente, ci sentiamo, ciao per il momento. Avanti Marco. Ehi attore, buona andata e buon ritorno quando lo farai. Ehi Giulio, comunque noi per essere solo in due, caspita, postavata bene. Però tu conta 3 kW 6 al giorno, solo di televisore, moltiplicali per 2 mesi. E già 3,6 per 30 è un bel. Per 2 mesi di bolletta, ogni 2 mesi arrivano, se non ho cambiato. È un bel di televisore, è un bel. Non si può stare 20 ore di televisione, cioè se lì si sveglia alle 7, lo accende alle 7 e lo spegne tipo alle 4 di notte, dipende. Se si sveglia alle 6 lo accende alle 6, capito? Di mattina? No, io no, io lo accendo tipo alle 8 di sera, alle 9 per il film. Però lì è teledipendente un po', no? Poi con queste gambe quasi non può camminare, quindi sta molto a casa, molto alla TV. Vabbè. Vabbè, quello sì. È ovvio, tanto è vero, una persona che vive a casa così che è quasi costretta a stare sempre a casa, o quasi sempre, è chiaro che cosa fa, alla televisione se la gente, magari ci sono dei momenti che non la guarda nemmeno, però il solo fatto di sentire l'audio è una grande compagnia. Succede un po' a tutti questo, Marco, che si accende la televisione e magari sembra che sia accesa così inutilmente, invece in realtà è per dare un pochino di armonia in casa. Eia. Caspita, in 2 mesi sono 216 kW, vabbè. D'altronde se lì c'è un po' quel passatempo, eccetera. A proposito di televisione, noi abbiamo un Seleco dell'86, che di per sé funziona, però c'è un piccolo difetto. È come che avesse un po' di squelce per l'audio. L'audio certe volte è con le cose esterne, a volte passa e a volte non passa, capito? C'è questa soglia di silenziamento, è molto fastidioso. Infatti questo lo buttiamo, mi pare sia un 20 pollici della Seleco dell'86, appena possiamo lo buttiamo all'autoparco, non ne vogliamo più di questa mondezza. È lo stesso quello della cucina, anzi forse il Seleco è un 22, quello della cucina è un 20, è un Daewoo mi pare, però via questi a tubo cattolico ce li buttiamo tutti, tanto non li stiamo nemmeno usando. Ok, sì, se non li usi, se non ti servono, è chiaro che le butti. No, noi, ripeto, noi abbiamo 5 installati qua a casa e funzionano tutti i santissimi giorni, perché io ho la casa più livello, no? Per cui partendo dalla tavernetta e saliva in montata poi, no? E stavo dicendo, più ne abbiamo un altro, uno che è in disuso, non perché non funziona, funziona benissimo, perché è conservato, ce l'abbiamo più, non sappiamo dove metterlo, però non lo butto perché funziona, è a colore, lo stesso, è un televisore che funziona benissimo, con tanto di presa scarsa e tutto, per cui va benissimo. In caso di necessità è al limite, se dovesse mancare uno di questi che abbiamo tutti i giorni, abbiamo l'altro in sostituzione. Non lo butto per quello, Marco. In tutto ne abbiamo 6. Eia. Beh, anche quello della cucina funziona, solo che sono pesanti, sono. Poi sai cos'è? Qua bisogna rifare tutto. Quando faranno la centralizzata, noi rifaremo tutto l'impianto in modo da servire più camere. Perché la televisione prima c'è da me e da mamma, no? Però c'era anche in cucina, c'era anche qua nel salone. Poi sai, cavi vecchi, non arriva più segnale, bisogna rifare tutto. Però non vogliamo questi barragioni, vogliamo dei televisori che poi cambieranno il codec di trasmissione. Quindi non conviene farlo adesso, ma conviene farlo quando cambieranno il codec, bisogna cambiare un bel televisore o di decoder. Tutta una cosa magna magna e comunque. Sì, infatti si è parlato già da tempo che cambieranno la frequenza, per cui nel 2020 o 21, se ricordo bene, che questi televisori non funzioneranno più perché cambieranno la frequenza. Per cui magari funzionano se ci saranno dei decoder appropriati, come appunto era prima il digitale, no? Con i vecchi televisori avevamo messo il decoder per avere il digitale terrestre e sarà così magari, pensate così. Purtroppo è un peccato, perché tutti questi televisori che abbiamo noi qua sono tutti nuovi, e suppongo che da qui a 2-3 anni sono ancora molto buoni, perché l'immagine è perfetta, sono nuovi, tutti nuovi, per cui mi dispiacerebbe anche buttarmi, ma al limite dovrò comprare 5 decoder per poter fare funzionare, poi si vedrà cosa fare. Tant'è vero, oggi consigliano di comprare un televisore che sia già predisposto per il futuro, perché oggi bisogna fare attenzione con i commercianti, quelli che vendono televisori, perché se destinano un televisore che magari fra 2 anni non serve più. Capito, Marco? Esatto. Hanno detto di stare molto attenti ai venditori, perché anziché avere un televisore proprio già pronto per il futuro, tenderanno a vendere i vecchi modelli che non hanno, non so cos'era, adesso non mi ricordo qual è il codec, qual è la, non mi ricordo niente, però bisogna stare molto attenti, tenderanno a rifilare roba vecchia. E io allora sai che già ti dico, che noi finché non vediamo schermo nero non cambiamo nulla, né decoder né televisori. Quando non vedremo più niente, allora prenderemo un nuovo decoder, che ormai nel 2020 e più saranno già tutti aggiornati. E così, facciamo così. Sperando che le compagnie telefoniche dopo pochi anni non si rubino un'altra parte di frequenze TV, capito? E così, altro decoder. Perché è colpa delle anche compagnie telefoniche, si stanno fregando, mi pare, la parte centrale della UHF, dei televisori, e quindi cambiano anche le frequenze, capito? Oltre che il codec. Qua ci vorrebbe Gianfranco, c'è l'ascolto, perché non mi dicono niente del codec, qual è, quale deve essere, che specifiche deve avere. Boh. Gianfranco, ci sei? Già lo so, no, ma basta guardare il computer, già c'è scritto sul computer, non è un problema. L'avevo già letto io al computer che cosa è la sigla principale. essere il televisore, appunto. No, ma stavo pensando anche questo. Ora, si era detto, perlomeno si era detto in quest'ultimo periodo, risalente a qualche mese fa, che la frequenza della televisione, quella attuale, sarebbe passata alla frequenza dei telefonini. Ma allora ci dovremmo comprare anche il telefonino nuovo. E lì la fregatura mi sembra che sia allo stesso modo per il televisore, è uguale anche per i telefonini, o Marco, dovrebbe essere così, perché al momento non può essere la frequenza del telefonino, non è certo quella della televisione. E non ti sembra che sia anche questo un ragionamento logico? Beh, diciamo che per adesso convive sia il 3G col 4G, poi faranno il 5G, ma non credo che il 3G scompaia. Vabbè, io sto parlando, sì, di connessione telefonica. Secondo me ci obbligheranno, capito, quando dismetteranno la 3G ci dobbiamo cambiare anche cellulare, smartphone, quello che è tutto magna magna, capito, tutta roba commerciale per vendere e per depredare i compratori, capito, gli acquirenti. Sì, per depredare direttamente le tasche dei consumatori, beh, quello sì, lo si sa. Vabbè, io capisco che il progresso ci deve essere sempre un'evoluzione all'avanguardia, questo sì, però ormai mi sa che stanno esagerando un po' troppo, troppo stanno esagerando, perché io già da qualche anno ho detto il progresso diventerà anche nel contempo un regresso. Adesso prendiamo il caso della plastica, delle bottiglie, dei piatti di plastica, bicchieri e cose varie, tutto quello che... Hai visto che stanno rovinando i mari? Prima hanno inventato la plastica, e questa invenzione è stato un progresso, indubbiamente, ma adesso è diventato anche un regresso, perché ha inquinato tutti i mari. L'altro giorno ho sentito una balena, aveva nello stomaco 80 buste di plastica, ti rendi conto? Tanto è vero che la balena è morta, o Marco? Sì, sì, c'è una corrente, mi pare nell'Atlantico, dov'era? C'è proprio un giro di correnti per cui c'è questo mega isolone di plastica che galleggia, e non solo, certe volte scende anche giù. E vabbè, il progresso a un certo punto porta, finché non distruggeranno proprio la terra non saranno contenti. Comunque mi chiedo anche se questi che dovrebbero riciclare la plastica, cosa ne so io, se la buttano a mare pure? Se la riciclano o la distruggono, probabilmente la bruciano, non lo so, la metteranno negli inceneritori, non lo so cosa fanno, però non è giusto, ma è tutto il mondo che sta andando molto avanti nel progresso, ma sta andando a rotto gli acri per quanto riguarda la condizione di vita, perché se noi pensiamo che oggi il robot addirittura, capita, ti sostituisce, che so io, la donna a casa, tanto per fare un esempio, o la lavoro in fabbrica, o qualsiasi altro lavoro, o qualsiasi altra azione o movimento dell'uomo stesso, che puoi immaginare. Cerchiamo di riflettere un attimino e andarci un pochino più calmi con questo fatto del progresso, perché così, andando avanti, alla fine che cosa facciamo? O meglio, che cosa faranno? Io magari non ci sarò più, tu ancora sei giovane, magari non ci sarai più nemmeno tu, perché passeranno anni ancora, non è che lo fanno da oggi al domani, però per dire, no, continuando in questo passo, guarda che veramente è un grosso danno per l'umanità. Guarda, io non ci sarò, ma dall'alto dei cieli riderò quando gli arabi finiranno il petrolio, capito? Hanno avuto il monopolio per 100 anni e più, ma quando finirà il petrolio dal paradiso o anche dall'inferno, dipende, mi farò grasse risate. Anche quello è vero, bisogna vedere se questo petrolio finisce, dovrebbe finire, prima o poi dovrebbe finire, e chi lo sa, magari c'è, non questo Sassuolo sia un oceano come il mare e non finisce mai. E chi lo sa, Marco, non sappiamo queste cose, no? Perché vabbè, le stazioni ce ne sono a milioni, le stazioni le fanno tutti i giorni e non solo gli arabi, ma anche in Russia, anche in America, un po' dappertutto. Sono noi che non riusciamo ad entrare da un quarto di petrolio, anche se ci sono dei posti dove ci sarebbe in Italia il petrolio, ma non siamo capaci ad entrarlo, ammesso che effettivamente ci sia, dicono che c'è, poi bisogna vedere, boh. Non lo so, o Marco, se questo petrolio prima o poi finirà, non lo so. Beh, io immagino, a meno che non ne scoprano nuovi di sempre i giacimenti, prima o poi le risorse del pianeta si esauriranno, magari fra 100 anni, che ne so, magari anche di più. Ma io credo si esauriscano le risorse del pianeta. Poi rovineranno tutto il mare, tutta la terra e poi si estinguerà l'umanità probabilmente. Capito? Dopo aver rovinato il pianeta però. Lo stanno rovinando con tutte queste cose che stanno inventando e facendo, ma comunque tutte cose belle che ci piacciono, certo che ci piacciono, però poi alla fine non ci dobbiamo lamentare dei danni anche che creano tutto questo progresso. Vabbè, ho visto un paio di colpi importanti in PMR, ho provato a chiamare ma non ha risposto nessuno. E adesso, finché non si calmano le acque, stanno tutti volando basso. Lo so, quello già è vero, basta usare il gommino e si può utilizzare. Certo, se poi diamo retta a qualcuno che ha messo in testa il discorso antenna attraverso il PMR, allora siamo tutti pazzi. Usiamo il gommino, siamo tranquilli e siamo sani in mente. Adesso per cambiare coso, no? Io ho aspettato tanto l'estate per godermi il mare, ma ho già capito l'antifona tra operazioni, controlli periodici, conferme, con altri esami, dei controlli della vista di nuovo, insomma me ne andrà via tutta l'estate, dai. Ho già capito, non devo tenere il controllo come si rimetterà la vista, devo fare esami periodici, il controllo, tenere d'occhio gli ormoni, insomma me la gioco quest'estate, dai, ho già capito. Va bene, meglio che si risolva tutto comunque. Certo che si risolve, caspita, io lo credo. Vabbè, pazienza, vuol dire dovrai sacrificare la l'estate, ma comunque no, non è quello il problema. Interessante poi risolvere quanto prima e così sei tranquillo, quella è la cosa più importante. Poi se devi giocare l'estate te lo giochi anche, perché no, però è interessante che si risolva questo problemino che si è verificato, per cui tranquillo Marco, non ci pensare più di tanto, devi cercare di rasserenarti il più possibile, perché guarda che è importante l'approccio anche a certe cose, è molto importante l'approccio che uno mette per affrontare certe situazioni, è molto importante. Eia, vabbè, sì, perché quando si comincia in questo circolo vizioso devi fare controlli per scongiurare poi ricadute eccetera, recidive, capito? Va bene, mi sta venendo la biocco, sta entrando poca gente tra ieri e l'altro ieri, una cosa veramente. Non c'è più nessuno, non hanno voglia. Vabbè, non finisco qui e sono discorsi sempre fatti e rifatti, non dico altro. Sì, avanti, sì. io entro quando c'è gente, magari. Se no, magari posso fare un colpo importante, fischiare, fare una chiamata, ma se non ve nessuno, mamma mia, mamma li turchi. Ma l'altro giorno la mia e tu alla Cisifella, io all'Ugabu. Si sente che sei molto nasale, molto intasato. Ma capita anche questo, da come sbalzi di caldo e di freddo. Certo, l'estate, mannaggia, non è il periodo migliore per farsi certe cure, no, cose, operazioni, perché avevo un caglio anche nei reparti, mamma mia. Va bene, prendiamola con filosofia, da. Comunque stasera già mi sono andato dal medico, sono andato da lì a pigliare le cosette, ho pigliato giornata la mamma, mi sono fatto un giro, insomma. Bene. Vai Giulio. Ok. Ciao Luca, perché cos'hai? Che calco ne hai, Luca? Sì, ciao Giulio, sì, abbastanza grande. Proprio il dopo del fatto, sono contato, sono fatto il supporto, ho fatto il numero, e già mi sono fatto, però ho fatto tutto e adesso stai parlando ora e quello, infatti ho fatto tutto, ho fatto la vita. Ok, già si sente che sei un po' con la gola chiusa. Stavo dicendo, ma sei già in lista per essere ricoverato per l'intervento? Sì, dopo l'estate. Ah, ho capito, sì, vabbè. No, non è una cosa così tanto grave, devo tre buchetti che fanno nella pancia e te la stilano il calcolo, non è... Quanto è grande il calcolo a proposito? Ma non era 15 mm. 15 mm? Ma non lo so se 15 mm è possibile a stilarlo, non lo so, perché di solito è così. 15 mm, sì, l'hanno detto, è la verità. E al limite è un tagliettino lì all'altezza dell'ombelico che fanno e te lo tolgo, ma niente di particolare o Luca. Ma potrebbero anche disintegrarle in loco con le sondine e poi tirarle fuori. A me avevano fatto quello dei reni, no? Si era bloccato un calcolo tra nell'uretere sinistro, cioè tra il rene e la vescica. Oh Luca, sono entrati dalla chicchia con le sonde e con laser, credo, l'hanno disintegrato perché era di 12 mm e mezzo, mi pare. Insomma, aveva proprio tappato l'uretere sinistro. L'hanno disintegrato e così hanno risolto. Un altro problema. Quando fare altre cose, cos'hai? Il collo? Collo. Ma è irritabile? È irritabile? No, colon irritabile. Colon, Marco, dovete... Ho capito, ma cos'è irritabile o cosa? La canna ti hanno fatto, cosa c'hai? No, tanto quando mangio, mi viene questo un dolore, ma una... Uno spasmo, può essere. Quello che si abbassa, dovrei fare anche la colonna. Eia, chiedi di farla da sedato, possibilmente. perché come pompa l'aria non è piacevole. Mia zia l'ha fatto da addormentata, poi si è svegliata e ha detto vabbè non me lo fanno, e te l'hanno già fatto. No, io avevo il colon irritabile perché mangio pasticci di tutti i tipi, cioccolato, di tutti i tipi. Mi ha dato una dieta, ho detto va vai, non ho mai seguito diete. Dimmi ma, va? Arrivederci con la spesa, mamma mia, no che sono stanco, ma sono stanco. Scusate un attimo. Io l'ho portato a letto, ma anche dove si è accettato. Ok. Mettiti un pentolino di acqua fredda sopra, che se la fredda, così appoggiata sopra. E tu con tutte le ventole che hai, ne avevi dato anche una a me, io la stavo sempre utilizzando. Anche in questo momento ce l'ho accesa. Per cui funziona sempre, va benissimo, oh Luca. Attaccati anche tu una ventolina, così almeno quel problema non ce l'avrai, quello di andare troppo baracchino. Luca, purtroppo le visite bisogna farle, d'altronde non si vuole fare. Ma fortunatamente oggi già ci sono anche le cure, per cui non c'è da preoccuparsi più di tanto. Giù la pentolina, ho tanto da riandare. Così ho fatto ieri me. Giulio, così ho fatto ieri. Avevo quello che scaldava parecchio, proprio diventa bollente, nonostante li regoli bassi, watt. Ho messo la ventolina attaccata a elastico, un bijou. Sì, certo, no, funziona benissimo, la ventolina, niente, tensione, tutto. Io l'ho sto alimentando, ma ce l'ho già da tempo, e ce l'ho già un paio d'anni, anche di più. Me l'aveva data Luca, stesso, me l'aveva regalata, questa ventolina, sempre quella di Luca, è sempre tranquilla. La sto utilizzando con un alimentatore di telefonino. Va benissimo, quello lì la sopporta benissimo questo vento, per cui problemi non ce ne sono. E per certo, se tu hai tre stazionari, allora il discorso è diverso, Luca. È chiaro che devi fare attenzione, se no parte. Vai Luca. Si sta facendo il toast sul baracchino, me. Lo so, magari non può riprendere perché è scaldato troppo. Ha detto che ha tre stazionari, è per quello che scalda. Cazzita. Tre stazionari sono tanti, non è poco, ma vuole vedere e come fa. Se continua a parlare è solo una questione di tempo, a saltare finale, a Marana. Allora che tu hai adottato il sistema della vetrolina, quella elastico là, cazzita. Sì, perché non mi piace la roba fissa, cioè quella ventolina la passo da una parte all'altra, no? L'attacco elastico, basta che passi l'aria sopra la cosa e la raffredda, è veramente efficace. Lo facevo anche con l'Omega Force, che era un'altra bestia a me. C'aveva un finalone grande, mi pare un 75-10, un finale mai visto. E scaldava anche con un watt. Non lo so, progettato male, non lo so. Ok, no, io l'ho attaccato al piano superiore del tavolino, l'ho attaccato al baracchino, dall'altro piano inferiore, e dunque l'aria gli arriva, la diretta gli arriva posizionata da una parte dove ci sono i finali, e va benissimo, non consente all'apparato di scaldare, proprio rimane sempre appena tiepido. Figurati, per cui non ci sono problemi, va benissimo, guarda, veramente bene, è molto efficace questa ventolina, perlomeno qui nel mio caso è così. Vediamo se riprende Luca. Per esempio questo baracchino non ha nemmeno ventole, lo sai, perché vabbè nasce omologato, quindi dici con 4 watt capirai. Ma ti dirò che a quanto pare anche nella versione 10 watt, vabbè non 10 watt, 8 watt AM, 8-9 watt AM, 30 SSB, non scalda. È abbastanza cosa, perché deve essere l'Omega e altri anche, sono progettati in modo strano, l'onfio, no? Vabbè, giusto in estate diventa un pochino tiepido dietro, un pochino tiepido, ma niente di che. Non le hanno messe perché forse, nasciamo il gatto, no? Non le hanno messe per quello. Oh, d'altronde anche il vecchio Connex 4000 Eco che avevo una volta non aveva le tere a freddamento. Sì, ma quando l'apparecchiatura va bene, arriva a una certa temperatura e si stabilizza lì, non è che se tu continui eccetera eccetera, non è che continua sempre a saldare, no? E ci mancherebbe altro. I trasformatori hanno quella funzione lì, e tutte le apparecchiature. A meno che non ci sia una varia, se c'è una varia allora è diverso il discorso, ma se tutto funziona bene, in una radio, in un baracchino, in un televisore, qualsiasi apparecchiatura, sì, scalda ogni tanto che deve scaldare, basta, ma questo non significa che scalda per dire dopo mezz'ora e dopo 5 ore che si è aumentata il calore, no, assolutamente, si stabilizza il calore e rimane sempre fisso, per tutto il giorno anche. Non va oltre, capito Marco? E qua se aumentasse sempre, allora si scenderebbe. Aia, Luca si era entrato? No. Allora l'Omega scaldava pericolosamente. Scaldava a tal punto che un giorno ho sentito questo odore di elettronica surriscaldata, non dico di valvola bruciata, ma proprio un odore di surriscaldamento elettronico, proprio, ho detto, io non che bevevo tutto, proprio progettato così, poi le alette di raffreddamento erano sottodimensionate, lì bisognava fare tutto, tutto dietro, tutto alette, vabbè. E americanate sono quelle là, americanate, bello però beh certo, quello sì. A proposito, dimmi come sto uscendo di segnale, come ti arrivo io adesso in questo ultimo periodo, visto considerato che non ho più fatto nessun controllo, come ti arrivo Marco di segnale? Guarda, se lo Smitter non si è sballato, arrivi come Gio Maria, 9.25. Ah, ok. Sì, no, perché poco fa stavo parlando con Tore, con un baracchino mi aveva dato Santiago 5, con l'altro mi aveva detto 9.5, 9.10. No, lo Smitter è capotato, per cui non è affidabile assolutamente. Perché per quanto possa essere anche lui ha un'antenna autocostruita, tipo canale a pesca, e entrambi ce l'abbiamo così uguale, però era troppo poco il segnale, anche facendo un confronto col suo segnale, perché lui arrivava già intorno ai 9.5, per cui io almeno 9.5 anche a lui dovevo arrivarci, no? Ma poi mi ha confermato che lo Smitter che aveva era proprio di quelli capotati. Vai Marco. Cappa, mi chiedevo una cosa, siccome ho visto come ottieni, no? Tutto un po' in discesa, belline le case, ci sono anche delle case proprio nella parte alta, no? Un po' il cocuzzolo dove c'è l'erba, molto alberi, molto verde. Mi chiedevo, se uno fosse nella zona alta di Uccieri, con una 5 ottave, arriverebbe a Sassari? Certo che arriveresti, perché no? Naturalmente dipende anche dalla ubicazione del cervello, perché quello è importante. Allora, se dovessimo per dire la struttura a Uccieri, voi che Claudio non arriva a Uccieri, ma o Cesare, o Antonello Pompugno non arriva a Uccieri, ma che arriva anche oltre, molto più lontano, arriva a Macomè, mi sembra, anche di più, anche oltre. Figurati se non si può arrivare da Uccieri a Sassari. Certo, arrivo io, una cosa, a Bugiuso, in banda laterale, sono arrivato però, non in aereo, in banda laterale. Mi hanno sentito anche a Olbia, dipende sempre dall'ubicazione del ricevente o Marco. Ehi, ma in passato ce n'erano, se tu ricordi, cibi da Uccieri? Sì, che ce ne sono stati, certo, sabato da Ossieri, da Ossano. Che si fa? Addirittura c'era qualcuno che arrivava lì a cosa, come si chiama, lì vicino a Cagliari. Ma non lavora. Dove c'è quel ciclista bravo, Alu? Mi l'ha chiuso, ti puoi immaginare, la Sassari. Mi l'ha chiuso. Certo, con stazioni di un certo caso, tipo quella di Walter ad esempio, eccetera, eccetera. Naturalmente, ripeto, ci vuole sempre la posizione, è ovvio, no? Sia la posizione del trasmettitore e del ricevitore, è ovvio. Ah, ok. Ok. Sì, perché c'è una parte che è molto tutta in salita o discesa, insomma. Non è male, Ozieri, come il paese, vederlo così. Ha una bella vista anche da un certo punto. Figurati che io con una misera antenna all'M, la free, che avevo allora, io parlo degli anni 70, parlavo tutti i santissimi giorni con Ivan di Osimo e con una ragazza che era l'isola d'Elba. L'isola d'Elba è Toscana, mio, non è di dietro, no? Eppure io avevo evidentemente la canalizzazione giusta e riuscivo a sentirlo tutti i santissimi giorni, tutte le sere, ma casualmente parlavo con questa ragazza di l'isola d'Elba. Io e quello di Osimo, Ivan, un ex, non so, sicuramente ancora, venditore di mobili di Osimo. Capito? Di che ti puoi immaginare? Si tratta sempre di trovare il varco giusto. Sì, l'altezza conta anche un po'. Perché per esempio se avessi la casa a Scala di Cioccalo, lì proprio dove c'è la scuola, è una bella 5 ottavi, mamma mia, sarebbe bello lì, molto molto bello, ma mi devo accontentare di quello che ho. Io al massimo ho portata ottica, posso arrivare a Sentino, portata ottica, poi se c'è il mare in mezzo magari anche qualcosa in più. Peccato che non ci sono più le barre nautiche sul canale 1, a fare dei riscontri. Mi ricordo che si buriavano anche quando si stava sull'1 o sul 2, dicevano che quello era il canale dei pescatori. Allora era bello, Sì, era bello in quegli anni lì. L'altezza è fondamentale, se c'è l'altezza, l'altitudine per la frequenza è fondamentale. Tu pensa che questa ragazza che abitava lì all'isola d'Elba, evidentemente era molto in alto, tanto è vero, tutti i segnali TV arrivano dall'isola d'Elba, in Sardegna, il segnale TV arriva direttamente dall'isola d'Elba, arriva, e poi si propaga nei vari ripetitori che abbiamo qui in Sardegna, cominciando da Bari Urbana, e poi Bari Urbana se ne manda qui di riflesso o in diretta a Monteolo e nei vari ricevitori che ci sono. Per cui era lei che aveva una testa molto, molto buona, perlomeno rispetto a me. Però evidentemente c'era anche un banco, perché io ripeto, in quegli anni lì, direttamente con la televisione, quando Sassari si insegnava di vedere Terra Monte Carlo, io mi prendevo Terra Monte Carlo tranquillamente, anche con l'antennino sul televisore, però l'avevo amplificato, perché avevo messo io l'amplificatore nel telefonino, quelli portati sopra il televisore, e vedevo Terra Monte Carlo tranquillamente, questo d'inverno d'estate sempre, non sto parlando di propagazione, sia per il paradiso che per la televisione. Vedevo TG Toscana, Rai 3 Toscana, della Toscana, quando Sassari ancora si assegnava a Rai 3, per cui si può immaginare, era la posizione nel branco giusto, c'era il telegioco allora, c'erano tanti canali che io vedevo direttamente in diretta, capito Marco? Mi ricordo da bambino che si vedeva questa tele Capodistria, ma per caso da dove trasmettevo originariamente? Proprio da quel punto là, al confine tra Trieste e gli slavi, per non dire peggio. Sì, anche quello vedevo, vedevo anche quello, ma ti ricordo perché avevo anche la televisione francese, direttamente dalla Corsica, per dire, vedevo anche quello, quello che io avevo l'antenna praticamente della televisione installata sulla riviera del Poggiolo della casa, non abitavo qua, abitavo in un'altra casa, però era parte della questa del Poggiolo, io avevo l'antenna della televisione e in punta c'era l'antenna del baracchino, e io con quei tubolini avevo segnato la staffa di sostegno e il tubo avevo segnato il punto di riferimento, dei segni avevo fatto con un pennarello e io volevo vedere per dire il terremoto di Carlo, siccome le graffe erano sempre rallentate e ce la facciamo girare con la mano, non rallentate da riuscire il vento a girare l'antenna, no, lo giravo io, mettevo a quel segno e sapevo che vi, perché avevo fatto mille ricerche, ho passato delle serate intere, delle domeniche intere a cercare la posizione, tu immaginati, orientavo, poi entravo dentro e facevo tutto il giro di tutti i canali per vedere se riuscivo a vedere, capito? E sono riuscito a vedere un sacco di segnali, ecco perché ti sto dicendo, io vedevo allora in quel periodo era Monte Carlo, Capolizia, Teleciopo, regionale della Toscana, ma vedevo un sacco di televisioni vedevo gratis direttamente con l'antenna che avevo, è chiaro che quando giravo l'antenna magari prendevo i canali Rai, ovvio. Guarda, io senza muovere l'antenna certe volte, più che altro estate, quando facevo ricerca, no? Vedevo certi canali di passaggio tipo Francia, Spagna, no? Quelle emittenti là, un po' arrivavano in propagazione. Ma sto parlando di quando ero piccolo. A proposito, guarda che stai un po' strano, se a volte quando dai, sente tra, quindi o passi appena o parla un po' leggermente più piano, se puoi. E mi ricordo anche, sempre da piccolo, quelle antennone direttive per ricevere la VHF bassa, dove c'era teleobiettivo Sardegna. Teleobiettivo Sardegna, certo. Anche teleobiettivo Sardegna c'era allora in quel periodo e poi con la Corsica ad esempio ci parlavo sempre in diretta, ci parlavo tranquillamente, non c'era, con la Corsica parlavo anche dalla macchina, vabbè con la Corsica ci ho parlato anche da poco quando c'era stato questo inverno passato, questa estate passata, c'era Sandro, c'era in Corsica, io sentiva tranquillamente, io sentivo a lui, addirittura hanno collegato anche con PMR, poi ci stanno per tutti e una, no? Ma è sempre questione di palco e di altezza, di altitudine. Mi sarebbe piaciuto fare vari esperimenti col PMR proprio original e in punti buoni vedere fin dove arrivava, però no, punti alti o vai su un monte, ma è un macello. Mi sarebbe piaciuto sentire, no, che tu portata ottica dove abitava Sandro, no, lì che c'è il mare, tipo, che ne so, Isola Rossa, Castel Sardo, ma non modula nessuno questi PMR, perché se no credo il segnale possa arrivare, proprio può colmare di meglio, mica riflette. Sì, guarda, io mi sono trovato a casa di Sandro un giorno, io perché ci avevo fatto del lavoro, e poi mi sono trovato, Alessandro, io mi sono trovato un giorno e lui aveva, mentre io lavoravo, lui era lì che guardava, beh, e aveva il PMR acceso. Beh, Sandro riceveva dal continente, da fuori, tranquillamente, senza parlarci, ascoltava quello che dicevano il PMR. E lui ha una grossa posizione, ma lì c'è il mare che fa da specchio, è diverso il discorso. A meno che non fossero turisti di passaggio, ma No, già lo fa il mare, l'effetto specchio, solo che alla fine magari li chiami, non rispondono, ben pochi usano il subtono, ho notato. E questi che usano il PMR così per divertimento e non solo, anche per piccoli lavoretti, pochi usano il subtono. Perché ogni volta che chiamo, poi dico, ho sbagliato canale, no? E rispondono, dice chi è? Chi è? Capito? Vabbè. Che ore sono? Le otto quasi. Non guarderò il telegiornale perché tanto è tutto politica, poi oggi c'è l'ennesimo marito che ha ammazzato la moglie, poi si è ucciso. Ogni giorno ce n'è una di questi omicidi. Ogni giorno, tutti macchiso. Altro che dare i porti d'arma. La gente sta impazzendo la gente. No, non è possibile, ragazzi, perché si possa continuare ad andare avanti in questo modo. Sì, perché. No, ma ti volevo dire, guarda che io un tempo fa avevo sentito il QSO, sull'LPD avevo sentito. I continentali che arrivavano qua, poi quello che stavano dando non lo so dire. C'è solo che a 433.065 io ho seguito un QSO di persone continentali parlando dal continente. Capito? Per cui non c'era meravigliato. Ma per questo, alcuni anni fa, noi stessi col gomino dalla strada, riuscivo a parlare con Genova. C'era questo radioamatore che puntava l'antenna direttiva, la puntava sulla Sardegna, nella zona della Sardegna, la puntava e noi tutti, non solo io, tutti quanti quelli che avevamo le repetizioni, allora riuscivamo a parlare con questo qui, e lui era a Genova. Non stiamo parlando da qui a lì, stiamo parlando a distanza di 400 km, grosso modo, o quanto. Sembra anche strano. Che direttiva avevo? Una 20 elementi. Ho visto uno che aveva un radiatore, aveva un'antenna UHF che era lunga, arrivava al secondo piano, mi pare. Non so se 20 elementi o più, una cosa mostruosa. Non lo so che antenna avesse, sicuramente aveva un'antenna sicuramente molto, ma molto, con molto guadagno, non ci sono dubbi. Lui era radioamatore, proprio radioamatore proprio, appunto puntava l'antenna verso la Sardegna, abbiamo parlato tutti, non è che ho parlato solo io, tutti quanti abbiamo parlato, tutti quelli di allora, io sto parlando di 6, 7, 8 anni fa più o meno, all'incirca, forse anche di più. Tutti i giorni, non è che a dire un giorno sì o un giorno no, senza propagazione, senza niente, non ce n'era bisogno. Quando c'era lui, tranquillo e pacifico, pensa che io la notte, allora c'erano qua i bidoni, i cascoli della Mondetta, uscivo la notte per buttare la Mondetta, come ho sempre fatto, e mi portavo il portatile mio, e dalla strada io parlavo con lui, direttamente a Genova. Per dirti, il cocomino è, non è ripetito, normale, non è malissimo il ripetito, è che avevo un professionale, un giocattolino, capito? Tranquillo, pacifico, ci arrivavo, quella era la voce, tutti quanti ci arrivavamo, lui. Ma poi come mai è finita la storia? Cioè è sparito lui oppure cosa è successo? Ah, questo non lo so cosa sia successo, e poi a lui l'hanno scoperto che faceva queste cose, questi collegamenti, non lo so, ma tutt'altro non l'abbiamo più sentito. Però ripeto, questo l'anno scorso, mi senza andare molto lontano, l'estate dell'anno scorso, e non un giorno di propagazione, non ce n'era, ho sentito due di loro, due continentali, che stavano parlando. Io avevo un ricevitore acceso, avevo con l'antenna attaccata, naturalmente non ricevevo niente. Al ricevitore, che c'era sempre questo ricevitore, io sempre lo accendo, lo metto sempre in ascolto. Ho sentito questo QSO su 433.085. Capito? Bene. Giulio, sono un po' stanco, da oggi è veramente stata una buona giornata campale e domani presto devo andare pure a controllare questi ormoni della scocciatura, pure digiuno devo andare ovviamente. Va bene, facciamolo perché è necessario. Ok, perché è ovvio, bisogna andare, Marco, no? Insomma, tutti i malighinzi ci stanno venendo, a chi? A uno, a chi l'altro. Ce l'è per tutti, oh Marco, ce ne abbiamo tutti, non ci abbiamo fatto. Tutti li abbiamo. Per cui, se vabbè lui sta manipolando, evidentemente, forse non lo so, se con una pietra o con qualche cosa, ma solo che si è strappato l'unghia. Ah, che male, non mi ci fare pensare, guarda. Bene, da quasi quasi per oggi basta. Adesso mi stravacco, guarda, cercherò di dormire presto perché poi domani mi alzo presto, lo stesso. E che ci sia un bel film, almeno. A proposito di film e di tifo che fai tu per Bologna, domani c'è di nuovo Bologna, da domani. Però è in prima serata, se no per 9-5 non lo so, riprende di nuovo quello schifo di programma che a me non so programma, è lui che non mi piace, ma comunque continua di nuovo quello con il suo programma a maggioranza, per voluto informare, se lo sapete, domani inizia domani è in prima serata. Ah, prima serata, che strano. Comunque anche a mamma ha detto, cioè, che alla fine comincia a stancare anche Bonolis, alla fine le solite cose, ti stanchi anche di lui. Chi c'è, Bacchizio? Non lo so, adesso lo chiamiamo, Bacchizio, se c'è. No, è proprio maleducato, non è questione di stancare, è proprio maleducato, proprio, non devo sentire la parola. Io, se fosse stato meglio, senti, non gliel'avrei consentito di fare certe battute da cretino, di offendere le persone come le offende. Vediamo se c'è Battiglio, sì. No, non c'è Battiglio o Marco. Ma poi dai Marco, chiudo anch'io, dai. Ci sentiamo, vado a cenare. Alle prossime Marco. Grazie per la chiacchierata, ci sentiamo. Ciao Marco, alle prossime. Giulio? Beh, ho sbagliato io. Giulio?